178. Frittelle di riso primo. Latte mezzo litro, riso grammi 100, farina grammi 100, uva sultanina grammi 50, pinoli tritati alla grossezza del riso grammi 15, uova 3 rossi e una chiara, burro quanto una noce, zucchero 2 piccoli cucchiaini, rum una cucchiaiata, odore di scorza di limone, lievito di birra grammi 30, un pizzico di sale. Preparate il lievito di birra come per i Krapfen numero 182, intridendolo con grammi 40 della detta farina. Cuocete il riso nel latte in modo che riesca sodo, e però lasciate da parte alquanto latte per aggiungerlo se occorre, ma per evitare che si attacchi rimestate spesso e ritirate la cacciaruola sopra un angolo del fornello. Tolto dal fuoco e tiepido che sia, versateci il lievito già rigonfiato, le uova, il resto della farina, cioè i 60 grammi rimasti, i pinoli, il rum e un altro po' di latte se occorre. Dopo averlo lavorato alquanto, uniteci l'uva e rimettete la cacciaruola vicino al fuoco, onde lieviti a moderatissimo calore tutto il composto. Quando avrà rigonfiato, gettatelo in padella a cucchiaiate per formar frittelle che riusciranno grosse e leggere. Spolverizzatele di zucchero a velo quando avranno perduto il primo bollore e servitele calde.